con Paolo Munzi del Comitato Villa Certosa per parlare della Due Giorni al quartiere della Certosa il 2 e 3 marzo 2019 con vari appuntamenti. Paolo, ben trovato. Grazie. Ci racconti? Dopo varie traversie che abbiamo avuto negli ultimi ormai 10 anni, con i vari personaggi politici che si sono avvicendati, prima in sesta circoscrizione, dopo l'unificazione di sesto e settimo è diventato quinto municipio, e dopo varie manifestazioni, vari appuntamenti, cioè compagni e compagni che hanno preso decine, se non di più, giornate di ferie per cercare di arrivare assessorati al comune, sono andati anche alla regione addirittura, e soprattutto qui in municipio, con il PD prima, con la giunta influenzata anche dalla giunta Alemanno poi, e con la giunta Marino, e adesso purtroppo questi ultimi 5 Stelle, che abbiamo portato puntualmente, come sempre, in piazzetta, nel nostro Largo di Savorgnano, qui a piazza che noi chiamiamo Largo Ciro Principessa, con giuramenti, promesse, eccetera, eccetera, ma è nulla di fatto. Noi facciamo delle richieste basi che riguardano il quartiere, il nostro piccolo quartiere, ma poi, insomma, voglio dire, Villa Certosa è un piccolo quartiere, ma il riferimento più grande era Torpignattara, se non tutta la circoscrizione. Noi siamo poi, abbiamo dei contatti con varie associazioni, con la SNIA, con i comitati di quartiere di Torpignattara, eccetera, eccetera. E abbiamo cercato di ottenere qualche cosa, tipo, intanto c'è il pericolo che sono crollati dei rami, la cotura degli alberi, la pulitura delle strade, e soprattutto la nostra richiesta, ma è un sogno, era avere un parco pubblico che purtroppo abbandonato qui sul costone di via Filarete. Purtroppo qui sono venuti i vari assessori, sono venuti personaggi politici di un certo rilievo, specialmente in campagna elettorale, e così come adesso in campagna elettorale stanno rifacendo vedere anche i 5 Stelle, ma purtroppo però niente, nulla di fatto. E quindi per la nostra iniziativa abbiamo forzato il parchetto pubblico, un parchetto qui che sta a via Grazialetti, angolo di Villa Certosa, e siamo stati dentro e sono 5 anni che lo gestiamo noi. Stiamo facendoci varie iniziative, abbiamo un mercato biologico 2 volte al mese, abbiamo fatto tantissime iniziative, tantissimi festival jazz, festa di Gabriella Ferri, insomma cerchiamo di tenere viva insomma, il quartiere di Scalo vivo e attraverso queste iniziative denunciare con volantini, manifesti, comizi, chiamiamoli così, insomma cercare di ottenere qualche corrispondenza con i 5 Stelle oggi. 5 Stelle che sono 2 anni e mezzo ci prendono clamorosamente in giro perché si ferma il tutto, loro adesso poi sono ripartiti, sono un paio di mesi, un mese e mezzo, sono ripartiti con l'asfaltatura delle strade, le buche, la pulitura degli alberi, ma tutto si ferma all'inizio di Villa Certosa, del nostro quartiere. Il nostro quartiere è completamente ignorato al punto tale, insomma, che voglio dire, sulla nostra richiesta ancora una volta, anche un po' più la faccia feroce, diciamo così, anche di più la faccia feroce, purtroppo nulla di fatto. Anche insomma abbiamo deciso lì, come dire, di provocare un pochino la situazione. E quindi insomma abbiamo deciso sabato 2, domenica 3 marzo, di promuovere sì una giornata di festa, ma una giornata di festa che sia anche provocatoria. Quindi faremo volantinaggio, faremo delle iniziative, puliremo il quartiere, e non soltanto simbolicamente, perché il quartiere sinceramente aveva anche bisogno proprio di essere pulito. Per cui sistemeremo il giardino, potremo un po' di arbusti, cespugli, puliremo tutto il quartiere, cercheremo di pulire anche i convini che puntualmente si allagano completamente, gli anziani non riescono proprio, anche perché c'è molti anziani che non riescono ad andare a fare la spesa, quindi poi si allaga tutto. E anche la cosa che è preoccupante è neanche davanti alle strisce pedonali, sono completamente sparite ormai da tantissimi anni. Questo è detto, almeno questo fate, ci sono bambini che vanno a scuola, che vanno alla Carlo Pisacane, alle elementari, insomma, sarebbe opportuno almeno se c'è bianco, intanto succede qualche casino, prima o poi succederà qualcosa di grave. Sì, vi preoccupate, adesso arriviamo, adesso arriviamo, adesso arriviamo, purtroppo anche questo è saltato. Quindi stanotte noi avevamo deciso di farle noi. Abbiamo comprato la vernice e probabilmente faremo tutte le specie pedonali fino a che ci sarà concesso, adesso non siamo pratici, vedremo un po' dove arriveremo, perché insomma sono tantissime, sono decine e decine le specie pedonali, i compagni più giovani. Stanotte pensano che in breve tempo faranno, io ho visto che per fare una striscia insomma ci vogliono un'ora, sono decine e decine, insomma ho calcolato ci vorrebbe una settimana, gli indici che sono pessimista, io a tutti i modi. Allora, insieme a questo c'è la festa di Carnevale e il biomercato. Il mio mercato che fa, noi facciamo comunque tutti i sabato sì e sabato no. Sì. Noi facciamo due sabati al mese, il primo e il terzo sabato, e quando non c'è lo facciamo il giovedì al comunale quartiere. I due sabati al parchetto, quello occupato da noi, e i due giovedì lo facciamo dentro il comitato di quartiere nostro. La festa di carnevale cosa prevede? Prevede una festa dei bambini, qui sono tanti bambini che sono per fortuna, insomma, sono un sacco di ragazzini, appunto per questo poi è la gravità delle spicce pedonali, dei stop, dei dossi, tutto bocciato, tutto rimandato da generazioni ormai purtroppo politiche, fanno generazioni politiche. Quindi i vari avvicendamenti, insomma, da PT fino ai 5 Stelle, passando le mani, passando eccetera, eccetera, non si è fatto mai niente. E quindi la festa dei bambini è una festa che noi abbiamo fatto, oggi abbiamo comprato il coriandolo, eccetera, eccetera, che saranno delle persone, dei ragazzi che faranno l'animazione, poi siamo noi che faremo il pranzo sociale tutti insieme. Donne che stanno facendo pasta, eccetera, eccetera. Noi abbiamo fatto, cioè, il pacchetto, abbiamo costruito una bistecchiera fissa, la cui pratica viene usata da non soltanto dal comitato quartiere, ma un po' da tutti. C'è, cioè, un compleanno, lo fanno dentro al pacchetto, chiedono l'autorizzazione. L'importante è lasciano pulito così come trovano. E quindi, che sono tutto il quartiere, insomma, quando c'è un bambino che fa la festa, vanno là, ma e vanno là anche i Bangladesh, anche i boligani, vanno, insomma, è un punto di ritrovo importantissimo per il quartiere. E però abbiamo dovuto, come dire, forzare per ottenerlo, perché purtroppo lì la storia è molto lunga, adesso non te la spiego, Federico, perché è molto lunga, ormai sono 6 anni, 7 anni che va avanti questa storia. Cioè, è la solita storia del pulpo, che sopra c'era un prato incolto, sotto c'erano fatto tramite vari impicci politici, sono riusciti a ottenere di fare 75 posti macchina, box, e previa però il fatto che si potevano lasciare, come dire, un piccolo parco gestito dal comune, no? E Sì. invece purtroppo i box l'hanno fatti, hanno cominciato a vendere, e sopra, purtroppo, quando è il momento che il comune è venuto al decimo dipartimento per ottenere l'abilitazione del parchetto, e ce l'hanno bocciato. Perché era fatto male, perché era fatto al volo, non avevo fatto, non avevo i requisiti necessari, non erano stati temperati, per cui è tutto chiuso. Tutto vendevano in box, come al solito, e sopra tutto nulla di fatto. Anche noi abbiamo cominciato a mettere striscioni, non comprare il box della vergogna, eccetera, eccetera, per cui i box siamo riusciti a ottenere una scarsissima vendita, se non un blocco totale, perché la gente non comprava per paura che, insomma, qualcosa accadesse allo politico, tutti questi striscioni, questo movimento l'avevamo creato noi. Per cui siamo riusciti a ottenere almeno una minima pulizia del parchetto, che però si è bloccata puntualmente, perché si rimpallavano le vendite, questi box, chi vende a destra, chi a sinistra, eccetera, eccetera. Per cui noi siamo riusciti a ottenere il blocco dei box. Box bloccati, però comunque anche il parchetto, ma sono 7 anni, poi che è bloccato. Noi purtroppo, animati di buona volontà, stanchi di questo tipo di politica bislacca e proprio confusa totalmente, siamo entrati, abbiamo rotto la catena, abbiamo rotto la siamo entrati dentro, lo gestiamo noi come comitato del quartiere, quindi tu sai cosa ci facciamo dentro, sono, ripeto, un sacco di iniziative, adesso sono decine, hanno fatto centinaia, per cui adesso va a ricordarsene tutte, però diciamo che è il cuore pulsante di Villa Certosa, è il partito, lì lo facciamo noi, tutte le nostre iniziative, compresa questa del 2 e del 3. Sperando che, insomma, tutto va bene, sperando che magari siamo ascoltati, ma dubito, perché proprio non se ne parla proprio, vogliono cacciare questi 3-4 mila euro, poi sono, tant'è vero che vorremmo riuscire a raggiungere questa cifra, perché noi poi questo qui, le stesse mamme dei bambini che vanno lì, hanno creato un piccolo comitato agganciato al comitato di quartiere, perché è formato anche da alcune persone del comitato di quartiere, che gestiscono la pulizia, gestiscono l'innaffiamento delle piante, gestiscono la pulizia, lì ci sono bambini, ci sono i giochi in sicurezza, ogni volta di nell'anno un chiodo si è attaccato, l'altalena, cioè, è tutto gestito dal comitato di quartiere, a livello proprio di buona volontà. Però questo è importante anche perché ha risvegliato un pochino, diciamo, spinti più, tra virgolette, rivoluzionari della gente del quartiere, che era un po' addormentata, come un po' addormentata tutta Italia. E quindi la gente si è un po' incavolata, cominciava a interessarsi politica, volente o nolente, chi c'è figlia, dove per forza le cose entrare in un mondo che era o sconosciuto o comunque abbandonato da anni, e doveva rientrare in gioco. E adesso, insomma, c'è una certa, come dire, rinascita, nel senso che, insomma, fa piacere al quartiere. Allora, ricordiamo l'appuntamento il 2 e 3 marzo alla Certosa con la festa di Carnevale, il biomercato e lo sciopero alla rovescia. Un saluto e un ringraziamento a Paolo Munzi del Comitato Certosa, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Spero che tu ci sarai. Speriamo di sì, dai. Dai, ok, Un va bene. abbraccio. Anch'io, ciao, ciao. Ciao.